Obiettivo dell'impegno morale. Nell'ottica islamica, la vita dell'uomo ha un obiettivo centrale che è l'ottenimento della grazia divina e in funzione del suo raggiungimento sono stabiliti valori e norme per tutte le azioni. Quando l'obiettivo principale della vita umana è la grazia di Allah, il Dio, viene posto all'umanità un traguardo sublime quant'altri mai, sicché si offrono possibilità senza limiti al miglioramento morale dell'uomo. La visione islamica della vita, dell'uomo e del mondo offre all'umanità una fonte sicura e definitiva riguardo alla definizione del bene e del male, della virtù e del vizio, poiché essa non si fonda sull'intuito, il desiderio, l'esperienza, l'intelligenza dell'uomo, che non possono fornire modelli etici e definitivi in quanto suscettibili di cambiamenti e modifiche, ma si fonda sulla rivelazione divina definitiva, il sublime Corano. Nel sublime Corano viene dato un modello di condotta morale permanente e universale, valido per ogni tempo e ogni luogo, che guida l'uomo in ogni passo della vita sul sentiero che conduce al paradiso.